English 24. Buonasera da Marta Cagnola. E da Giulia Crivelli. La scorsa settimana avevamo parlato di un giornalista che amiamo molto, che è Anderson Cooper. Questa settimana parliamo di un altro giornalista, ancora una volta sulla bocca di tutti. Però prima vorrei ritornare insieme a te, Giulia. Sulla scorsa puntata avevamo lanciato una sorta di sondaggio ai nostri ascoltatori, perché c'era una battuta con un doppio senso di Anderson Cooper. Noi avevamo dato un'interpretazione così a naso. Ci sembrava. Dobbiamo ringraziare Gail, che ci ha detto che l'interpretazione che avevamo dato la scorsa settimana era giusta. Comunque, possiamo grazie, dire così. Grazie a Gail, ed è una cosa che, sì, appunto, il tema era quello del bathroom humor, del senso dell'umorismo un po' da bagno degli uomini, o da spogliatoio, potremmo dire in italiano. Però siccome questo significato in particolare viene dall'universo dei bambini, non preoccupatevi, non è niente di terribile. No, niente di terribile. Anche questa volta parliamo di giornalismo. Lo facciamo in maniera un po' diversa, perché di questo personaggio si parla molto. Si chiama Andy Carvin, è un giornalista che si sta muovendo in maniera eccellente nelle nuove tecnologie. Lui è stato qualche mese fa ormai ospite del Festival di Giornalismo di Perugia. Non ne avevamo ancora parlato, allora abbiamo rubato qualche estratto dal suo keynote speech in quell'occasione. È online sul sito del Festival del Giornalismo e quindi vi consiglio di ascoltarlo. Noi ascoltiamo solo qualche estratto per sentire come ha raccontato del suo avvicinamento a Twitter e a cosa gli è servito. Sentiamo subito il primo estratto. It's a real honor to be here in Perugia. It's my first time in Perugia, though it's my third time in Italy. Actually, 10 years ago this week, I proposed to my wife in Rome. You may have noticed that my job title is senior strategist. What on earth is a senior strategist, and what are they doing at a news organization? For me, at least, I could be what you might call in English a guinea pig in residence. In other words, my role at NPR is to experiment. To tinker, to try new things. Another thing that the title conveys is that I'm not part of a traditional newsroom hierarchy. Un inglese chiarissimo, un'esposizione perfetta, e come sempre quando parla un anglosassone, in particolare gli americani, danno anche un tocco di umanità. Al loro intervento. E poi, insomma, perché lui è legato a un legame romantico con l'Italia. Dice: "It's my first time in Perugia", quindi prima volta a Perugia, ma third time in Italy, terza volta in Italia. Actually, uno dei nostri false friend, quindi non attualmente, ma in realtà, in verità, 10 years ago this week, quindi 10 anni fa a quest'epoca, proprio in questa settimana dell'anno, ma 10 anni fa, I proposed to my wife in Rome. Ho fatto la proposta, questa è letteralmente la proposta, ma la proposta per gli americani, per eccellenza, la proposta di matrimonio. Quindi 10 anni fa ha chiesto alla sua allora fidanzata, futura moglie, di sposarlo, e lo ha fatto a Roma. Quindi to propose to somebody vuol dire proporre a qualcuno di sposarti. E così ha subito conquistato la platea con questo aneddoto molto carino. Poi cerca di spiegare qual è il suo lavoro. Difficile. Quindi il job title è proprio la qualifica, quella che appare sotto i biglietti da visita o sotto le email. Che cos'è lui? È un senior strategist. E ammette subito: "What on earth?" Che cosa, che è un modo di dire letteralmente, è "che cosa nel mondo", che vuol dire "ma cosa caspita vuol dire?". Cioè, può voler dire tutto e niente. E qui dà un'immagine molto carina, perché dice che si sente un guinea pig, cioè un criceto. Si sente un criceto in residence, però. Sapete che in residence è un po'... Purtroppo noi non abbiamo tanto questa abitudine, però si può essere un artist in residence, cioè un artista che viene reclutato per stare un mese in un posto, magari anche pagato, anzi senza magari, per sperimentare. Ecco, lui si sente un cricetino che è stato messo lì per sperimentare naturalmente nel nostro mondo, che sta cambiando così velocemente e anche indecriptabilmente per molti, il mondo del giornalismo. E infatti non fa parte della gerarchia tradizionale, non ha un ruolo immediatamente comprensibile. E qui per appunto chi, tra l'altro, credo che stia arrivando anche in Italia un telefilm sui giornalisti, non vedo l'ora di vederlo. Ecco, in inglese la redazione, quella che noi chiamiamo redazione, dove siamo noi adesso qui a Radio 24, il piano sopra c'è quella del Sole 24 Ore, il piano sopra anche c'è quella di RadioCorp, per darvi due coordinate geografiche, si chiama in inglese newsroom. cioè più semplice di così, la stanza delle notizie. Noi la chiamiamo redazione, c'è una gerarchia naturalmente dal direttore in giù fino a noi redattori ordinari, questa hierarchy, e lui dice questo job title, senior strategy, does not convey, oppure cioè conveys, quindi fa capire che io non sono parte of that traditional newsroom hierarchy. Ma continuiamo con questa descrizione molto interessante di Carvin. You don't see the word editor or producer or even journalist or reporter by my job title. Because the type of work I'm doing is so relatively new to a newsroom, it's hard to peg me down exactly where I fit, which in some ways can be nerve-wracking, but in other ways can be somewhat liberating, especially when I'm trying to conduct experiments related to how we use social media and collaboration with the public to improve the quality and diversity of our journalism. Like many journalists over the last 5 or 6 years, I've been fascinated by Twitter. My first interest in it was simply because I had worked in online disaster response, and it fascinated me what would people do if they had the ability to text message someone while they're in the middle of an earthquake and they need help. Eccolo qua, allora io direi che noi siamo molto appassionate di non solo di film ma anche di televisione, di serie TV. Queste definizioni che riguardano i lavori del giornalismo sono spessissimo mal tradotte in italiano. Sì, editor, ma altro che false friend, falsissimo friend. Editor non è l'editore, mai e mai e mai e poi mai. Editor è in generale il direttore. Ancora più chiaro e inequivocabile quando è un editor in chief oppure un editor at large. Invece l'editore, cioè colui che pubblica il nostro, allora quello è il publisher, anche se poi va bene nei magazines il publisher è anche un'altra cosa, ma non complichiamoci la vita inutilmente. E poi c'è il producer, che non è il produttore, almeno in questo caso. Certo, anche in questo caso è invece colui che noi potremmo tradurlo come caporedattore in una struttura multimediale soprattutto, oppure journalist, quello sta chiarissimo, oppure reporter, e anche qui abbiamo staff reporter, junior reporter, perché c'è una hierarchy, i giornali sono delle gerarchie quasi perfette, quindi la gerarchia c'è. Difficile to peg me down, to peg somebody down vuol dire inserirlo in qualche casella, cioè capire esattamente dove sta, codificarlo, ecco, è difficile farlo con lui, capire where he fits, dove lui veramente, qual è la sua casellina, appunto. E dice, chiaro che anche per me, sometimes it's nerve-wracking, rack vuol dire agitare, quindi ti fa un po' innervosire, anzi più che innervosire, però somehow it's also liberating, perché effettivamente essere liberi da una definizione, quante volte ci dà fastidio essere incasellati, ecco, lui non può essere incasellato, nel bene e nel male. Non viene incasellato, ma ultimamente si parla di lui, soprattutto nel suo ruolo legato a Twitter, e lui racconta il suo primo esperimento. E qui vedete proprio l'uso, di cui abbiamo parlato tantissime volte, di quella forma verbale che deve dare l'idea di una cosa che succede da tanto tempo. I have been fascinated over the last 5 or 6 years. Cioè è una cosa, Twitter, che mi ha affascinato, ma non ieri, non nel 1999, non l'altro giorno, ma ne sono rimasto affascinato in questo periodo che si espande su 5 or 6 years, 5 o 6 anni. Pensate anche qui come in fondo erano avanti, perché se di Twitter in Italia, insomma, diciamo che intensamente si parla da un paio d'anni, no? Anche i giornalisti stessi, anche i più famosi, sono su Twitter da poco. Ecco, questo è un signore che su Twitter sperimenta da almeno 6 anni. Ma sentiamo come ha iniziato, perché noi spesso, Giulia, scriviamo anche delle sciocchezze su Twitter, mm-hmm. Ma ha iniziato anche lui con delle sciocchezze, sentiamo. For a while I would just use it to describe what's going on in life. I would often use it to complain about flight delays. And then one day in late December 2007, I was in another airport waiting for yet another plane that was delayed. And then I started seeing tweets on my phone about Benazir Bhutto. And there were reports coming in that there had been an assassination attempt against her. So while I waited for the plane to get ready and waited for the snow to stop, I sat there and began to tweet to people, asking them, what have they heard from the wire services? Do you know anyone on Twitter who's in Pakistan? Is there anyone who can help us figure out what's going on? And over the course of the next hour or so, a group of us came together quite organically, informally, to piece together what had happened until it got to the point where I was able to confirm that Bhutto's death was announced on Pakistani TV. And I was able to know that because I found a Pakistani on Twitter who was live tweeting what he was seeing on television that day. Lui all'inizio scriveva soprattutto degli aerei in ritardo, perché si trovava in quei momenti morti all'aeroporto e quindi twittava queste cose. Però a un certo punto ha capito qual era l'uso giusto per lui e grazie a tutto questo è diventato anche molto famoso. Tra l'altro notate l'uso di yet, perché dice: nel December 2007 I was in an airport waiting for yet another plane. Qui yet, che sappiamo che vuol dire not yet, per esempio non ora, non adesso, in questo caso è l'equivalente italiano di l'ennesimo, quindi stavo aspettando l'ennesimo aereo, stavo aspettando perché probabilmente aveva l'ennesimo ritardo. Ha cominciato a vedere questi tweets che riguardavano un assassination attempt against Benazir Bhutto. A volte pensiamo appunto di sapere tutto in tempo reale, ma forse era il 2007, ma se succedesse adesso forse non sarebbe tanto diverso. Appunto, magari la televisione pakistana non è che la possiamo vedere proprio così facilmente, ma Twitter sì, così come è stato per la primavera araba, e sono stati i social media che hanno dato le vere notizie. Quindi I began to tweet, anch'io ho cominciato a mandare dei tweets per vedere se qualcuno mi rispondeva direttamente e voleva sapere what have you heard from the Wired Services. Wired, prima abbiamo detto, qui sopra c'è Radiocore, la nostra agenzia di stampa, ecco, Wired Services sono le agenzie di stampa che si chiamano ancora Wired perché una volta era tutto via cavo, adesso sappiamo che spesso è via internet, quindi sono comunque, se sono cavi sono cavi diversi, però si chiamano ancora così in inglese. E ha scoperto la verità proprio tramite una persona che guardava la televisione in Pakistan. Quindi ha cominciato a mettere tutti i pezzi insieme, perché Twitter poi è questo, to piece together what happened, mettere insieme tutti i pezzetti per capire il quadro generale, what happened, quello che era successo, and it got to the point that, e sono arrivato al punto che a pakistani, quindi una persona in Pakistan, un signore, un ragazzo, he was live tweeting, quindi stava in tempo reale twittando what he was seeing on Pakistani TV, che però da noi la Pakistani TV, lui nell'aeroporto americano sicuramente non la vedeva, ma i tweet sì che li vedeva, li leggeva, e così ha capito che Benazir Bhutto era morta. E così è iniziata anche la carriera sui social network di Andy Carvin, molto importante dal punto di vista del giornalismo, particolarmente significativa. Infatti questo era l'inizio del keynote speech al Festival del Giornalismo di Perugia, si trova sul sito del Festival del Giornalismo. Noi per il momento vi lasciamo qui perché è finito il nostro tempo radiofonico per questo sabato. Vi ricordo l'appuntamento con English 24 in edicola. Ringrazio Fabio Cantadori in regia, da Marta Cagnola e Giulia Crivelli l'augurio di una buona serata.